Sono con Federica Mazzoni, presidente del quartiere Navile, per scambiare due chiacchiere sulla 19ª edizione del Premio Letterario Navile, che quest'anno ha un titolo che non vuole essere propriamente un tema, ma è una sorta di suggestione creativa: mercati, mercanti e viaggiatori. È proprio così, perché la si può interpretare in molti modi diversi, a partire da quello che c'è uscendo di casa, proprio nel quartiere Navile, la Bolognina, ma non solo, quindi i mercati rionali, il commercio di prossimità, come cambia, come modifica anche le strade, ma anche la vita delle persone. Lo si può interpretare anche guardando la vita di chi si sposta, magari per cercare anche dei destini, delle opportunità migliori, sposta se stesso, sposta le merci. Poi sì, c'è anche un tema di mercati in senso di dinamiche e anche economiche, che possono apparirci lontane, no? Sopra le nostre teste, anche in ottica, no? Sovrainternazionale, ma che poi hanno comunque sempre degli impatti molto concreti su tutti noi. E da qui anche i cambiamenti, anche le criticità, le difficoltà del nostro tempo, rispetto anche a povertà economiche, di solitudine, di fragilità. Tutto questo insieme anche a una grande ricchezza però di capitale umano, se lo vogliamo chiamare così, a Navile c'è, e quindi abbiamo pensato di richiamare su queste sollecitazioni gli autori, le autrici che vorranno partecipare con racconti inediti. Infatti c'è una sezione unica di racconti, ci sarà tempo fino al 31 maggio per inviare i propri racconti, la partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, anche ai minori, previo autorizzazione ovviamente. E i primi 5 classificati entreranno a far parte di un'antologia, esatto, del premio. Esatto. Domani esce il bando, appunto fino al 31 maggio, premieremo i vincitori e le vincitrici a ottobre e ci sarà un'antologia, quindi proprio una pubblicazione, un volume che è già, insomma, è un qualcosa anche di tangibile, che come non solo ricordo ma anche poi per tornare su queste parole, su questi racconti, ci sarà molto importante. Grazie Federica. A voi.